E con questo si chiude il numero 2 di Pod Power. Tutte le puntate di Pod Power, sì, da capo questo. Pod Power. That sounds worth listening. Prova. 1, 2, 3, prova. Immettete il numero dell'utente desiderato. Allo, hello, bonjour. Et bonjour, bonjour.